Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Fin dentro il porto di Trieste, la burrasca. Mare canuto di riccioli bianchi rabbuffato dalla bora. È arrivata anche quest'anno la sfrenata visitatrice degli inverni triestini. Bisogna equilibrarsi con la corsa nella corsa della bufera. Fiume di vento che spopola le vie, s'arrabbia sui crocicchi. Ci sono stati feriti, pure noi guardiamo con uno speciale sentimento a questa buriana. È un aspetto di Trieste, fedele al suo clima. Forza triestini, tornerai bel tempo. Se sei nato a Trieste, non puoi fare a meno di fartene una ragione. La Bora è parte integrante della vita, del panorama e dello spirito del capoluogo più a est d'Italia. È un elemento costituente del suo corredo cromosomico, un po' come la nebbiolina sul Tamigi a Londra o il sole che splende sulle ville in collina a Los Angeles. Se sei nato a Trieste, ci sei abituato a quelle raffiche di vento che a volte superano come niente i 150 km orari, 20 in più del limite di velocità consentito su una qualsiasi autostrada italiana. Se sei nato a Trieste, la Bora la conosci per nome. La Bora è la tua vicina di casa. Certo, sai bene che si tratta di un vento catabatico di provenienza est-nord-est che soffia con particolare intensità, specialmente verso l'alto e il medio Adriatico. Ma per un triestino è fin troppo facile abbandonarsi alle trite definizioni da enciclopedia o da sussidiario. La Bora sa essere dolce come il sapore delle cose di casa propria e al contempo amara, come un tragico bollettino di guerra. Buon pomeriggio dal TG del Friuli Venezia Giulia. Da due giorni Trieste è stretta d'assedio dalla bora che non soffiava così forte da 50 anni. Dalla città e dal golfo arriva una sorta di bollettino di guerra con interventi senza sosta da parte dei vigili del fuoco e un uomo ferito in modo serio dopo una caduta in via Bonomo. Scoperchiato anche il liceo Oberdan. Diverse strade della città e della periferia sono rimaste a lungo bloccate, chiuse al traffico. Una vera e propria sequela di notizie dal fronte. Ecco cosa sembrava il telegiornale regionale del Friuli Venezia Giulia, andato in onda lo scorso 2 marzo, giusto pochi mesi fa, quando la bora ha toccato la velocità record di 173 km orari. La bora nasce a Segna, si sposta a Fiume e muore a Trieste. Ecco il popolare antico detto che i vecchi fiumani e triestini amano ripetere ai loro nipoti. E se è vero che a Trieste la bora si limita a morire, chissà come deve essere crudele dalle parti della Slovenia e dei Balcani, terre incessantemente battute e sferzate dai venti, e non solo quelli meteorologici. I venti di guerra, infatti, sono quelli che hanno davvero contribuito a mettere in ginocchio l'intera zona dei Balcani, molto di più delle differenze pressorie che sono la causa scientifica delle correnti d'aria. Le guerre jugoslave, scoppiate nella prima metà degli anni 90, sono state una serie di conflitti armati in bilico tra guerra civile e aspirazioni secessioniste, che hanno coinvolto svariati territori appartenenti alla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, causandone di fatto la definitiva dissoluzione. Gli strascichi di quegli eventi, iniziati ormai 2 decenni fa, sono tutt'oggi sotto i nostri occhi. È finita la fuga di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, ricercato per crimini di guerra e contro l'umanità. Era latitante da 15 anni. La notizia è stata confermata dal presidente serbo Boris Tadic e rappresenta una svolta per le aspirazioni di Belgrado per l'ingresso nell'Unione Europea. Per le sue azioni l'Europa riscoprì il termine pulizia etnica. È stato arrestato in una località nel nord della Serbia, Lazarevo, dove alloggiava in casa di un parente. Non ha opposto resistenza al momento dell'arresto. La cattura del feroce generale accusato di genocidio è una notizia che anche a distanza di 20 anni ha fatto tirare un sospiro di sollievo al mondo intero. E avrebbe certamente tirato un grosso sospiro di sollievo anche il primo protagonista della nostra storia. Un uomo che alle guerre era abituato per lavoro, per contratto. Non stiamo parlando di un soldato, ma di un coraggioso videoreporter. Il suo nome e Miran Hrovatin. Miran Hrovatin. Miran è il protagonista di una storia che tutti abbiamo sentito e metabolizzato in oltre 16 anni di scandali, inchieste, insabbiamenti, giravolte giudiziarie, mezze bugie e mezze verità. È una storia di giornalismo, di coraggio e di amore per il proprio mestiere. Una vicenda che dal freddo dei Balcani si è trasferita nel caldo torrido della Somalia. E se è vero che la storia di Miran Hrovatin ci porterà a toccare con mano la polvere e il sudore dei paesi africani, è anche vero che il nostro punto di partenza è pur sempre la ventosa Trieste, la città abbattuta dai venti, meteorologici e non, che spirano dall'est. Miran era di Trieste, no? Come me. E io lo conoscevo già da... Lui era uno sloveno di Trieste. Può darsi che abbiate riconosciuto la voce di Giovanna Botteri, attuale corrispondente della RAI da New York. La grande mela però non è sempre stata il suo punto d'appoggio. La Botteri, in 20 anni di carriera, ha coperto le zone più calde del pianeta, dall'Iraq ai già citati territori della ex Jugoslavia. E proprio i Balcani, di fatto, sono stati tra i territori più frequentati dalla reporter, proprio in virtù delle sue origini triestine. Non è difficile capire come sia più agevole per un individuo già proveniente dall'est del nostro paese comprendere le facce dei luoghi che proprio con quell'est confinano. Per Miran, triestino di nascita e sloveno di origini, quei posti non hanno segreti. Quando comincia a scoppiare il casino dei Balcani, quindi già subito 89, lui che faceva il fotografo, fonda con altri questa società che si chiama Video Est, in cui ci sono operatori, fotografi, eccetera, che sono tutti, tra l'altro, amici miei. Tra gli amici triestini di Giovanna Botteri c'è anche Giampaolo Penco, videoreporter e collega di Miran, cofondatore della società Video Est. Anche lui conserva un ricordo nitido di Miran e dei suoi primi passi nel mondo del lavoro. Allora, io Miran l'ho conosciuto prima di cominciare la nostra formare la società Video Est. L'ho conosciuto quando lui faceva un altro mestiere e io ero ancora uno studente. Lui lavorava in un negozio di ottica e è sempre stato un grande appassionato di macchine fotografiche, di oggetti. In principio fu la macchina fotografica, prima ancora della videocamera. All'inizio è attraverso gli scatti, i poderosi click che sanciscono la chiusura dell'otturatore, che Miran cattura la realtà che lo circonda. È il suo modo per coglierla a pieno, per impossessarsene una volta per tutte, imprimendola sulla pellicola. Poi, ovviamente, oltre a vendere, anche faceva fotografie. Mi ricordo tantissimo tempo addietro, sempre prima che cominciassimo a lavorare assieme, che mi aveva chiamato una sera insieme ad altri amici a guardare le foto che aveva fatto in Sud America, in Perù. Ecco, quello che mi aveva colpito all'epoca è che lui era tornato dal Perù con qualcosa come 5.000 foto, cioè ha cominciato a proiettare diapositive alle 10 di sera, alle 3 di notte non aveva ancora finito. Per cui aveva questa passione e quasi una bulimia nel creare immagini, nel fare immagini. Verso la fine degli anni Ottanta, Miran comincia a lavorare con un'agenzia giornalistica che copre il territorio italiano, effettuando riprese per conto di TV Capodistria, emittente televisiva slovena che effettua trasmissioni anche in lingua italiana. È qui che Hrovatin ha modo di addentrarsi sempre di più nel mestiere di video operatore, abbandonando progressivamente la passione per la fotografia per avvicinarsi sempre più a quella per le immagini in movimento. Poi nel 1990, per vari motivi, ma soprattutto finanziari, TV Capodistria ha deciso di chiudere questa agenzia. Anzi, torno un attimo indietro, ecco, proprio forse tramite TV Capodistria aveva fatto il primo servizio all'estero, ha fatto un servizio sulla guerra del Maghreb, penso che sia stato il suo primo reportage di guerra, perché di solito all'epoca si faceva tutt'altro. Il primo reportage di guerra lo colpisce, lo sconvolge, lo incita a proseguire su quella strada. Quando nel 1990 gli viene proposto insieme ad alcuni colleghi di mettersi in proprio, Miran non ci pensa su due volte. È da qui che nasce l'avventura dell'agenzia Video Est, cordata tutta triestina di esperti di immagine pronti a cimentarsi più o meno in tutto. Riprese per i telegiornali, documentari, videoclip, pubblicità. Giampaolo Penco è tra coloro che fecero l'impresa e ricorda con nitidezza quei momenti. videoclip anche quelli, però con Miran, nascevano sotto l'idea del reportage. Cioè, l'idea era, non so, andiamo, questo videoclip mi ricorda la visione di Alice, come l'ambientiamo? L'ambientiamo in Ungheria, cerchiamo gli zingari, e si partiva in questi viaggi non organizzati alla caccia delle immagini che si pensava, certo, la tipologia di immagine era diversa da quelle dei reportage. Può darsi che la tipologia di immagine di un videoclip sia diversa da quella di un documentario girato in un territorio ostile, ma lo spirito che sta dietro a quelle riprese, se si è per natura curiosi e affamati di scoperte, è esattamente il medesimo. Grazie all'esperienza di Video Est, Miran ha l'occasione di cimentarsi sempre più spesso con i reportage, spesso commissionati dalle redazioni dei telegiornali Rai. Ma la vera fortuna per Miran arriva in conseguenza della sfortuna capitata a un paese a lui caro. È con lo sfaldarsi della situazione in Slovenia che Rovatin si ritrova in prima linea sul fronte balcanico. Poi, diciamo, la carriera, la vita di Miran ha una svolta quando c'è la prima guerra, quando scoppia la prima guerra in Slovenia, si risolve la Jugoslavia, è una vera e propria guerra, i carri armati arrivano sul confine, ecco che Miran e Video Est cominciano a documentare lo sfarinarsi dello Stato Jugoslavia, dello Stato Jugoslavo. Le prime riprese penso le facciamo in proprio o forse qualcosa anche ci telefona alla RAI. Poi ci si organizza. Miran, oltre a essere bilingue, aveva due madrelingue, lo sloveno e l'italiano, sapeva parlare anche correntemente croato, per cui si muove molto bene, conosceva molto bene anche il territorio e diventa in pochi anni, visto il veloce propagarsi delle guerre intestine in Jugoslavia, diventa reporter prima a Zagabria, poi a Sarajevo, poi a Belgrado. Miran vive, lavora e passa la stragrande maggioranza del suo tempo in Jugoslavia, assai più che nella nativa Trieste, dove risiede la sua famiglia e dove il reporter riesce a trascorrere ormai solo brevi momenti di vacanza. Le redazioni dei telegiornali Rai, per coprire eventi di portata storica come quelli che stanno avendo luogo nei Balcani, hanno bisogno di gente esperta e competente, capace di destreggiarsi senza paura in territori aspri, freddi, duri e pieni di contraddizioni apparentemente insanabili. Giovanna Botteri ricorda come l'allora direttore del TG3, Sandro Curzi, privilegiasse l'invio di reporter culturalmente attrezzati in luoghi delicati come quelli della ex Jugoslavia. Quando comincia il casino dei Balcani, loro cominciano a lavorare con la RAI perché perché conoscono la lingua, perché conoscono l'ex Jugoslavia, insomma, ed è lo stesso motivo per cui Curzi comincia a mandarmi a me ad occuparmi della questione. In quei luoghi così difficili, la reporter Giovanna Botteri, inviata della RAI, ha modo di lavorare fianco a fianco con il video operatore Miran Rovatin, suo concittadino di Trieste e pertanto, come lei, è abituato alla lingua e alle peculiarità locali. I due fanno corrispondenza prima dalla Slovenia e dalla Croazia e poi, ovviamente, dalla Bosnia. Quest'ultima, in particolare, segna irrimediabilmente l'immaginario di Rovatin, imprimendovi un'ombra scura, fatale. È impossibile restare indifferenti di fronte ad avvenimenti tanto terribili. E la strage del mercato del febbraio 1994 a Sarajevo è di certo uno di questi. Alcune granate serbe cadono su una folla gremita di civili nel mercato di Mercale, nel pieno centro della capitale bosniaca, provocando 68 morti e 200 feriti. La Botteri ricorda ancora con commozione quei momenti rimasti così impressi nella sua memoria e in quella del collega Rovatin. Andiamo giù, poi sai come si va giù per lunghi periodi perché non riesce a tornare indietro, perché non ci sono più gli aerei. Quindi facciamo prima la strage, questa strage che sparano sui bambini che vanno con lo slittino, e poi questa strage del pane, la strage del mercato. La strage del mercato per Miran è devastante, perché sai, la morte, l'odore della morte, del sangue, vede questi bambini, gli sembra di vedere suo figlio, insomma è molto molto pesante. Rovatin, nato a Trieste, è cresciuto a cavallo fra la cultura italiana e quella balcanica. Comincia ad essere stanco di vivere un'esistenza irrimediabilmente battuta dai gelidi venti di guerra di quei luoghi. Nel mondo, per un bravo videoreporter che sa fare il suo mestiere, ci sono altri paesi, altre zone calde da battere, sia in senso climatico che giornalistico. La Somalia, nella prima metà degli anni 90, è una di queste, come ricorda Giampaolo Penco. In realtà, quando è arrivata la telefonata per il lavoro della Somalia, adesso non mi ricordo più se ha telefonato o Giovanna Botteri o Alice Luzzatto Feci, Miran era lì, era ancora in Serbia. Per cui inizialmente in Somalia doveva andare l'altro nostro reporter, diciamo in zona di guerra, che era Niki Filipovic. In caso Miran chiamava a lavorare con la Saldi, quando ho saputo questo ho detto no. Vado io in Somalia e così Niki è andato a prendere il posto suo, lui stava lavorando in quel momento a Sarajevo, c'è stato questo scambio. Un paese africano dilaniato da un conflitto intestino è il luogo perfetto per attirare l'attenzione di un operatore come Miran. Innanzitutto può continuare a tenere in allenamento il proprio coraggio e la curiosità, immortalando le immagini di una guerra civile che in pochi avrebbero il fegato di documentare. E poi c'è l'altro elemento non trascurabile, che è quello del cambiamento di clima. Miran non ne può più dell'eterno inverno dei Balcani, ha bisogno di scaldare le proprie ossa lavorando sotto una buona dose di sole. Così parte per il Corno d'Africa, contento di affiancare un'altra giovane e intrepida giornalista della RAI nelle sue coraggiose indagini sul territorio somalo. È un'amica di Giovanna Botteri. Le due sono colleghe del TG3, condividono la passione per i temi forti e per il proprio mestiere. E quindi succede questa, capisci? C'è l'incrocio per cui lei alla fine parte con Miran per la Somalia e io parto con Niki Filipovic per la Bosnia Centrale, quasi contemporaneamente. Scopriremo chi è questa intrepida lei tra poco. Destini incrociati. Destini incrociati è nella prima metà degli anni 90 e segue la carriera di Miran Rovatin, video operatore originario di Trieste, ormai abituato a fare reportage dai difficili territori dei Balcani fiaccati dalla guerra. Quei luoghi sono la sua seconda casa. Eppure Miran ha bisogno di staccare col fisico e con la mente e di allontanarsi per un po' dal vento gelido, meteorologico e storico che spira su quei territori sfortunati. La partenza per la Somalia è il primo lavoro che lui fa al di fuori dei paesi dell'est. È il collega Giampaolo Penco a sottolineare la novità dell'incarico affidato a Miran. Si tratta di effettuare riprese della guerra civile in Somalia a fianco della giornalista Rai, che si occuperà di redigere i servizi avvalendosi proprio delle preziose immagini di Miran. Lei è giovane, ambiziosa, ama quel mestiere alla follia. Ne conosce la pericolosità, ma allo stesso tempo ne intuisce l'enorme potenziale. E grazie a quel mestiere, al costante e indefesso lavoro dei reporter, che si possono raccontare e talvolta smascherare le brutture del mondo. Lei ha poco più di 30 anni e coraggio da vendere. Il suo nome è Ilaria Alpi. Ilaria Alpi. La partenza di Miran per la Somalia non è scontata. L'incarico inizialmente non è affidato a lui, ma al collega Niki Filipovic. Miran e Niki, di fatto, devono dividersi tra due guerre e due giornaliste, Ilaria Alpi e Giovanna Botteri, rispettivamente intente a coprire la guerra civile somala e i conflitti nei Balcani. La Botteri ricorda perfettamente quei momenti così intensi fatti di decisioni e indecisioni, cautele, slanci, di forti consapevolezze e tragiche lacune. Ma mi ricordo, io mi sono preso una terribile bronchite e stavo a casa con questa bronchite che è venuto il medico a farmi le iniezioni ed era al telefono con Ilaria e al telefono con Miran per loro la partenza, per la mia partenza. Allora Miran parte con me, no, Miran parte con Ilaria, e sembra, non so come dirti, e quando fai questo ti senti come se non potesse succederti niente, no? Perché è come se tu fossi dall'altra parte, quello che racconta e non quello che è raccontato. È come se il fatto che tu sei quello che racconta ti mettesse quasi al sicuro, come quando sei dall'altra parte dello schermo e vedi, e invece non è così. Miran e Ilaria partono per la Somalia forti della loro passione giornalistica. Un fuoco, un amore per un mestiere che la Alpi si porta dietro da sempre, quasi fosse l'aria che respira. E per Ilaria è, non lo so, noi abbiamo fatto tutto questo percorso parallelo, per cui siamo arrivati in Rai contemporaneamente, siamo arrivati in redazione assieme, eravamo le nuove arrivate, eravamo le pischelle che nessuno si filava, eravamo quelle che hanno preso quello che nessuno voleva prendere, lei la Somalia, io la Bosnia, cioè i posti più brutti, più rischiosi, che evidentemente allora non è come adesso che sembrava molto glamour essere una reporter di guerra, allora non era insomma così, e noi l'abbiamo preso perché erano le strade che ci si sono aperte per lavorare, per fare le nostre cose. Niente glamour, dunque. Le giornaliste vecchio stile non subiscono il fascino della telecamera e non gongolano contente davanti all'obiettivo. Le immagini che contano sono solo quelle, crude e reali, catturate dai loro fidati video operatori. A Ilaria la voglia di scoprire ed esplorare non è mai mancata. Dopo il diploma in un liceo romano, si laurea in lettere seguendo assiduamente anche svariati corsi di lingua e cultura islamica presso il Dipartimento di Studi Orientali della Sapienza di Roma. È ancora la collega Giovanna Botteri a raccontarci della sua passione per culture così diverse e lontane dalla sua. Ilaria ha studiato l'arabo ed ha vissuto in Piazza Tahrir, al Cairo. Tu pensati, lei che ha vissuto a Piazza Tahrir, che avrebbe voluto aprire un baretto a Piazza Tahrir e restare là, che cosa avrebbe potuto raccontare adesso? La giornalista si riferisce naturalmente agli avvenimenti che in Piazza Tahrir, al Cairo e in altri paesi dell'Africa affacciati sul Mediterraneo hanno recentissimamente portato alla caduta di governi e regimi stantii ed antidemocratici. Una sollevazione dal basso, popolare, che ha meritato il nome di Primavera Araba. Ilaria sarebbe stata entusiasta di documentare la svolta democratica dei paesi vessati per decenni, avrebbe intervistato la gente comune, fatto domande, seguito piste, curiosato senza paura e senza sosta. Giovanna Botteri conosce molto bene quella sensazione. Con Ilaria condividevamo anche un modo di fare questo lavoro, di completamente diversa era la voglia di capire, di raccontare agli altri le cose che vedevi. È molto cambiato, per questo, come dicevo, era meno glamour, non c'era l'esposizione tua personale, era molto molto inferiore. Io per esempio ho fatto delle cose incredibili in Bosnia, eppure vieni fuori per quello che hai fatto in Iraq, perché sei molto più anche esposta come immagini. Cioè era un momento in cui dovevi raccontare le cose, dovevi dimostrare, sai, poi come donna dovevi dimostrare di essere all'altezza di una tradizione di cui non avevi mai fatto parte, quindi E sono le storie, le strade, tutto quanto si incrocia, tutto si... ed è tutto casuale in qualche modo. Ilaria, come donna e come giornalista, sente di dover dimostrare il proprio valore. La determinazione, l'amore per un mestiere e anche gli insondabili misteri del caso, come sottolineato da Giovanna Botteri, la portano in Somalia a seguire da vicino il conflitto intestino che dalla caduta del dittatore Siad Barre nel 1986 sconquassa senza sosta il paese del Corno d'Africa. Le prime missioni di Ilaria all'inizio degli anni 90 sono all'insegna dell'esplorazione di un territorio nuovo, complesso, doloroso, eppure affascinante. Una terra che imparerà ad amare, così come ama la follia il proprio mestiere. Il lavoro che tu hai sempre voluto, il lavoro per cui tu hai studiato, per cui il lavoro che ti appassiona, il lavoro in cui credi, in cui sei disposto a fare qualsiasi sacrificio, a non dormire, a rinunciare a tutta una serie di cose, perché quello in cui credi, quello che ti piace fare, quello che pensi sia giusto fare, è la cosa migliore che fai. Miran in questo è proprio uguale a lei. Quando raggiungono insieme la Somalia nel marzo 1994, non si limitano semplicemente a catturare le immagini che scorrono davanti ai loro occhi in quella terra assolata e polverosa. Fanno di più. Scavano al di sotto dello strato di sabbia e terriccio che a Mogadiscio ricopre indistintamente ogni cosa. Le case, i civili, i pescherecci, i caschi blu delle Nazioni Unite, le jeep, i fucili stretti nelle mani dei combattenti. Ilaria e Miran scavano perché non c'è altro modo per loro di fare il lavoro che fanno. Miran non solo è felice di poter fare il lavoro che ama, avendo la possibilità di affiancare una giornalista che, come lui, crede profondamente in quel mestiere, ma è contento anche di essere riuscito ad allontanarsi per un po' dai Balcani e dal loro freddo interiore ed esteriore. Miran è entusiasta dell'esperienza in Somalia e appare sereno anche agli amici che lo sentono spesso per telefono. Tra questi c'è anche Giampaolo Penco. Ecco, la cosa che mi aveva colpito, visto che lui anche quando mi telefonava o ci telefonava, diciamo, dalla Serbia, più volte esternava preoccupazione, o altre volte insomma ci raccontava l'orrore rispetto a quello che vedeva, la telefonata della Somalia non tradiva nessun tipo di preoccupazione, era come se lui non avesse intravisto alcun tipo di pericolo. Visto che Miran era anche un tipo molto, molto sveglio e molto attento, vuol dire che la percezione sua era reale, che in quel momento loro non intravedevano alcun tipo di pericolo. Può darsi che Ilaria Alpi e Miran Rovatin non fiutino l'odore del pericolo, ma certamente non possono fare a meno di sentire la puzza di marcio emanata da certe losche figure incontrate sulla loro strada. I servizi di Ilaria sulla guerra civile somala, infatti, si stanno progressivamente trasformando in qualcosa di ancora più grosso e inquietante. La giornalista sembra essere sul punto di smascherare un traffico d'armi e rifiuti tossici che coinvolgerebbe, tra gli altri, anche l'esercito ed alcune importanti istituzioni italiane. Ilaria sceglie di andare in Somalia proprio per seguire le piste che spera possano condurla alla difficile verità. A scatenare i suoi sospetti ha contribuito la morte in circostanze misteriose del sottufficiale del SISMI Vincenzo Licausi, ucciso nel novembre 1993 a Balad, in Somalia. Il maresciallo Licausi era un informatore della stessa Alpi e le forniva indiscrezioni sul traffico illecito di scorie provenienti dalle nazioni occidentali e dirette nel paese africano. Nonostante la sua morte, Ilaria non demorde. Andrà fino in fondo, senza paura. Per farlo, però, ha bisogno dell'aiuto di un coraggioso videooperatore. Ilaria e Miran partono insieme per la Somalia nel marzo 1994. La professionalità e l'esperienza di Rovatin sono proprio quello che serve alla Alpi per portare a termine quella che ormai, a tutti gli effetti, si sta trasformando in un'inchiesta davvero scottante. Destini incrociati. Destini Incrociati segue il lavoro di Ilaria Alpi e Miran Rovatin, una giornalista e un video operatore pronti a raggiungere insieme la Somalia per sviscerare fino in fondo la questione che Ilaria ha in testa da qualche tempo. Vuole indagare più in profondità su una serie di loschi traffici, rifiuti tossici stoccati illegalmente in territorio somalo in cambio di armi, merce preziosa, in un paese da anni straziato da una guerra civile. E ancora Giovanna Botteri a ricordare i momenti concitati che precedono la partenza dei due amici e colleghi. Torniamo a Roma e Ilaria, che nel frattempo era la mia compagnuccia di banco, in redazione, tutto quanto, e lei copriva parallelamente a me la Somalia, si ritrova ad essere senza operatore, a non trovare ad operatore. Quindi in questo giro lei a un certo punto va a Belgrado a fare una cosa brevissima, a Belgrado incontra Miran. Quando cerca l'operatore io gli dico: senti, questa è la quadratura del cerchio, perché tu cerchi l'operatore, Miran è stanco di Balcani, di sangue, di morte. Infatti Miran mi dice: ha quasi come andare a farsi un poco di vacanza col sol, perché invece Sarajevo, la neve, l'inverno forte. L'unione dei talenti di Ilaria e Miran fa contenti tutti. Fa contenta Ilaria, che ha bisogno di essere affiancata da un operatore coraggioso ed esperto. Fa contento Miran, che ama le imprese difficili, ma è stufo di lavorare nel freddo dei Balcani. Entrambi hanno la sensazione di essere al posto giusto nel momento giusto, esattamente sul punto di smascherare scomode verità sul ruolo dell'esercito e dei servizi segreti italiani, coinvolti insieme ad altri organi della cooperazione internazionale in una serie di traffici dall'aspetto non proprio cristallino. Un terreno scivoloso, una questione che né Ilaria né Miran hanno intenzione di lasciar cadere. Il problema è, quando lavori, tu pensi soltanto a quello che fai, a quello che devi fare, quindi pensi ad avere le immagini, quindi pensi ad avere l'intervista, pensi a montarla, pensi a quello che stai facendo, non hai capito questa cosa di adesso faccio, adesso rischio, adesso. Evidentemente hai una storia che è una grande storia e cerchi di andarci fino in fondo per raccontarla. Lei conosceva quel posto, conosceva quel mestiere, era il mestiere che amava fare, era la cosa che l'appassionava, quello in cui credeva di più. Lo stesso valeva per Miran. Tranquilli, concentrati sui loro obiettivi, convinti di non correre alcun pericolo, Ilaria e Miran si muovono tra Mogadiscio e Bosaso, località al nord della Somalia, dove Ilaria ha modo di intervistare il sultano Abdullahi Musa Bogor, personalità di spicco in grado di fornire particolari sul carico delle navi Shifco, oggetto di un sequestro proprio in quelle settimane, e sospette del traffico di rifiuti nei mari fra Italia e Somalia. Qualche giorno più tardi a Mogadiscio, Ilaria e Miran viaggiano a bordo di un'auto insieme all'autista e a un interprete. Stanno attraversando la città e devono ultimare i preparativi prima della messa in onda del servizio del TG3 di quella sera, carico di scottanti rivelazioni. D'improvviso, l'inferno. Una jeep li affianca, sbarra loro la strada. Scendono alcuni uomini armati che si avvicinano all'auto degli italiani e sparano prima a Miran una sola volta, ma precisa, e poi a Ilaria due colpi, in sequenza. La terribile notizia della loro morte fa il giro del mondo. Sul luogo del delitto sono presenti troupe televisive svizzere e statunitensi. Anche in Italia lo sgomento non tarda ad arrivare. Buonasera, oggi è un giorno tragico, un giorno di lutto per l'informazione italiana, per la RAI e soprattutto per noi giornalisti e tutti quelli che collaborano al TG3. La nostra collega, la nostra amica Ilaria Alpi è stata uccisa poche ore fa a Mogadiscio, stava lavorando per noi, stava lavorando per la RAI. Insieme a lei è stato ucciso il suo operatore, Miran Rovatin. Miran aveva 45 anni, una moglie Patrizia, un figlio di 7 anni, Ian. E così. Ci hanno lasciato e penso che con questo possiamo concludere. Buonasera. The baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. La notizia della morte di Miran Hrovatin e Ilaria Alpi è sconcertante per il paese intero e in particolare per i giornalisti Rai che vivono ogni giorno sulla loro pelle le difficoltà di un mestiere nobile ma faticoso. Giovanna Botteri ricorda con sgomento gli attimi in cui apprende la notizia. Perché noi restiamo bloccati con Niki in Bosnia centrale, siamo bloccati nel senso che non riusciamo ad avere più comunicazioni con Roma, con niente. Quindi attraverso un viaggio avventuroso da Vitez riusciamo a raggiungere Sarajevo. Da Sarajevo chiamo la redazione e al telefono mi trovo una collega, poi è andata via, che mi dice: ma allora sai di Ilaria? E dico, perché noi avevamo le notizie, loro partivano per Bosaso, noi partivamo per Vitez, loro tornavano a Bosaso, noi dico, ma sono tornati? E dice, è morta. Dico, ma come? E Mira è morto anche lui. Ed è stata una cosa tremenda. La commozione di una collega e di un'amica, di una persona che si rende conto che forse su quell'auto al posto di Ilaria avrebbe potuto esserci lei. E allora io prendo un'auto e attraverso tutta la ex Jugoslavia in guerra da Sarajevo per raggiungere Trieste, viaggiando la notte da sola per riuscire ad arrivare a Roma, dove poi sarebbero arrivati i corpi di Ilaria, di Miran, dove c'era il funerale di Ilaria. Bare avvolte nel tricolore, funerali solenni e strazianti, seguiti da 16 anni di inchieste, commissioni parlamentari, magistrati destituiti dall'incarico, testimoni inattendibili che forniscono versioni contrastanti, due passi avanti e tre passi indietro e via di questo passo. Una vera e propria ridda di giravolte investigative e giudiziarie, culminata con l'istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta presieduta dall'avvocato Carlo Taormina, la cui relazione finale sbalordisce chiunque possieda un briciolo di buonsenso. Non ci fu nessuno scoop messo a tacere con un duplice omicidio, ma i due giornalisti italiani, piuttosto, furono le vittime sfortunate di una manica di banditi locali. A sentire Taormina, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin non erano depositari di alcun segreto, né erano a conoscenza di cose inenarrabili nei campi della cooperazione, del traffico d'armi, del trasporto di rifiuti. Delinquenza comune, dunque, non disperata, crudele strategia del silenzio. È più facile, più conveniente pensare ad Ilaria Alpi e Miran Hrovatin come a due specie di sprovveduti caduti sotto i colpi ciechi della fortuna avversa. Ed è straziante pensare a quello che invece avrebbero ancora potuto documentare se fossero qui, microfono e camera in mano, a fare orgogliosamente il proprio lavoro. Pensa Miran cosa avrebbe fatto oggi che hanno arrestato Mladic quando noi abbiamo coperto Srebrenica e tutto. Il premio giornalistico televisivo intitolato ad Ilaria Alpi, che ha luogo proprio in questi giorni al Pala Congressi di Riccione, è uno dei tanti modi in cui negli ultimi 15 anni si è lottato per tener viva la memoria e lo spirito indomito dei due colleghi scomparsi. Purtroppo nessuno però è ancora riuscito a riavvolgere il nastro della videocamera di Miran e scrivere un finale diverso a questa storia triste e intricata. E come la storia di Samarcanda, non so se hai presente quello che vede la morte e che pensa di riuscire a scappare, e come se fosse così, capito? Come se loro fossero scappati ai Balcani e finendo uccisi dove non pensavano di venire uccisi. È una cosa abbastanza terribile che è successa a Miran, è così. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini Incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.